Bene, riprendiamo queste brevi audiosintesi di letteratura italiana parlando del poliziano, a cui poi seguiranno sintetiche esposizioni su Ariosto e Tasso, insomma, in buona sostanza, tre grandi poeti accomunati fra 400 e 500 dal fatto di avere scritto capolavori in ottave. Ecco, ho pensato di, no, visto che bisogna inevitabilmente ridimensionare i programmi, fare molti tagli, che bisogna fare comunque, ma a maggior ragione con questa didattica a distanza, allora ho pensato di costruire questo piccolo percorso didattico incentrato proprio su questi tre poeti che fecero dell'ottava, ecco, del microcosmo strofico costituito dall'ottava, il proprio strumento principe d'espressione, ecco, lo poliziano, di cui affronteremo soltanto la favola di Orfeo, testo teatrale, anche se scritto in ottave, ma ecco, poi ovviamente Ariosto e Tasso, no? L'Orlando Furioso, la Gerusalemme liberata, poema cavalleresco, l'Orlando Furioso, poema eroico, la Gerusalemme liberata, non è esattamente la stessa cosa. Quindi di fatto tre generi, possiamo dire, diversi: la favola teatrale, una sorta di sacra rappresentazione, ma di argomento classico anziché cristiano, ecco, la favola di Orfeo del poliziano, poema cavalleresco che si rifaceva alle chanson de geste medievali, quindi poeta pienamente rinascimentale, come ovvio l'Ariosto, anzi forse più tipica espressione poetica del cosiddetto Rinascimento maturo, quello che approssimativamente occupa i primi tre decenni del Cinquecento, poema eroico con profonde radici medievali, invece, la Gerusalemme liberata di Tasso, poeta del manierismo, così del tardo Rinascimento, un rinascimento ormai quasi proiettato verso la sensibilità barocca, un rinascimento in cui oramai non ci sono più le ariose e radiose simmetrie e armonie del rinascimento maturo, e al contrario un rinascimento ormai inquieto, ormai chiaroscurato, con venature di angoscia e di turbamento, che preludono al barocco per la particolare complessità, a volte addirittura contorta di certe espressioni, ma preludono addirittura al romanticismo per molte inquietudini spirituali, che attraversano la poesia del Tasso, che non a caso sarà così accesamente apprezzato da Leopardi e anche da altri romantici. Ad ogni modo, andiamo con ordine, insomma, Agnolo, Angelo, o se preferite Agnolo Poliziano, di lui abbiamo già, ecco, tipico esponente dell'umanesimo quattrocentesco, di lui abbiamo già parlato trattando della filologia umanistica, come ricorderete, come abbiamo già visto, come dicono anche quei video e quei testi che ho pubblicato nello spazio didattica del registro elettronico. Insomma, Poliziano fu uno dei massimi, forse il massimo esponente della grande filologia dell'umanesimo, no, come abbiamo già detto, l'umanesimo quattrocentesco fu un periodo di fervide ricerche e frequenti riscoperte di manoscritti dimenticati. Il grande Poggio Bracciolini fu probabilmente il principe di questi scopritori di manoscritti dimenticati. Fu l'epoca in cui venne pubblicato per la prima volta integralmente il De Rerum Natura di Lucrezio. E fra l'altro è stato notato che esiste una continuità fra l'umanesimo e la rivoluzione scientifica, perché molto probabilmente fu proprio la riscoperta del De Rerum Natura di Lucrezio a dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica, perché Lucrezio, come sapete, no? Professava una forma di materialismo, di meccanicismo che spingeva alla ricerca delle leggi fisiche, delle leggi scientifiche che presiedono alla vita della natura e della materia. Ovviamente la visione lucreziana della natura e della fisica degli atomi era ancora una visione molto ingenua, no? Molto parziale, insomma, conteneva soltanto vaghe intuizioni che non erano nemmeno del tutto originali, perché l'atomismo esisteva già da Democrito a Epicuro, ma fu proprio come impostazione generale, no? La riscoperta del De Rerum Natura, che era se non altro un'opera che presupponeva una forma di materialismo, di studio della natura iuxta propria, principia. Ecco, fu proprio la riscoperta del De Rerum Natura, probabilmente, a dare un impulso decisivo col processo che poi sarebbe sfociato, soprattutto nel XVII secolo, fra XVI e XVII secolo, nella rivoluzione scientifica. E leggeremo anche, non ricordo se l'ho già caricata sul registro elettronico, comunque leggeremo anche una paginetta di Galileo per dare un'idea di questo clima culturale. Ma ecco, no, questo per dire che la riscoperta della nuova fioritura degli studi letterari non fu priva di ricadute anche nel campo scientifico, e che non c'è una divisione così netta e così a compartimenti stagni, insomma, fra i due ambiti, quello degli studi letterari e quello invece della scienza. Ma ecco, ovviamente la riscoperta dei cara de de della della di molte opere classiche dimenticate impose anche la creazione di un metodo rigoroso, tra virgolette, scientifico, ecco, nello studio dei testi classici, e di fatto nacque la filologia in senso moderno. Filologia, cosa significa? Diciamo, si tratta di quella disciplina che ha come fine quello di determinare la forma più corretta, più verosimile, più rispettosa della volontà dell'autore di una certa opera letteraria, e anche lo scopo di garantire l'interpretazione più corretta dal punto di vista storico, lessicale, concettuale. Con l'interpretazione più corretta di quel testo. Solitamente si dice che nel Medioevo prevaleva l'interpretazione allegorica, cioè i testi non venivano considerati in sé e per sé per il loro valore storico e letterario intrinseco, ma ci si sforzava di interpretarli allegoricamente, scorgendovi ad ogni costo dei significati cristiani ante litteram, incorrendo in tal modo in forme di anacronismo. Forse questo giudizio va un po' mitigato, perché se pensiamo ad una figura come quella di Petrarca, Petrarca è una tipica figura che si trova al crocevia fra le due epoche. Petrarca non abbandona del tutto l'interpretazione allegorica, pur essendo decisamente un precursore dell'umanesimo, come gli stessi umanisti riconobbero. Credo di avervi fatto leggere quando la scuola era ancora aperta, qualche paginetta proprio degli umanisti che riconoscevano in Petrarca il proprio maestro, il proprio precursore. Del resto ancora Marsilio Ficino, il massimo esponente del neoplatonismo rinascimentale, ricorreva ampiamente all'interpretazione allegorica, pur essendo un tipico esponente dell'umanesimo, no? La sua edizione e traduzione di Platone, traduzione dal greco al latino, rimane uno straordinario monumento della cultura umanistica europea, ma non Marsilio Ficino non abbandona due degli elementi tipici della cultura medievale, cioè l'interpretazione allegorica dei testi, e anche la volontà di conciliare il platonismo con il cristianesimo. Ecco, io ho caricato anche in didattica due brevi estratti di due studiosi, mi sembra il Burdach da una parte e Eugenio Garin dall'altra, ma insomma c'è tutto un dibattito sui rapporti fra Medioevo e Rinascimento, no? Alcuni studiosi insistono sulla contrapposizione netta fra le due correnti, fra le due epoche, diciamo. Altri invece sottolineano la continuità, in fin dei conti, forme di renovatio studii, cioè forme di rinnovamento culturale, ci furono anche nel periodo medievale. No, la Rinascenza carolingia, ad esempio, l'idea della renovatio o della translatio imperii con Ottone III, poi la scuola di Chartres con la riscoperta del platonismo, ma per restare nell'ambito carolingio, insomma, se uno considera la grande figura di Alcuino, ad esempio, Alcuino, il fondatore della scuola palatina, di fatto scriveva in un latino assolutamente classico, puro, ciceroniano, e richiamava proprio, soprattutto gli ecclesiastici, ad uno studio serio della cultura classica, anche per poter riuscire a capire gli stessi testi cristiani, che comunque richiedevano una cultura letteraria per poter essere capiti, interpretati. Ho dato già un'occhiata alle vostre prove scritte, ho intravisto così, no, che uno di voi, non ricordo chi, uno o una, mi sembra fosse un maschio, insomma, giustamente ha sottolineato proprio questo aspetto, cioè l'esistenza di anticipazioni dell'umanesimo già nell'età medievale. Quindi forse questa contrapposizione così netta fra il Medioevo così dogmatico e allegorizzante, invece l'umanesimo filologico e più attento al valore autonomo della letteratura, della sapienza profana. Ecco, forse questa contrapposizione così netta va un po' attenuata. E proprio nel caso di Poliziano, così entriamo nel vivo, diciamo, e Poliziano concepisce e scrive la favola di Orfeo, che di fatto è come una la favola di Orfeo, scritta in italiano, perché ci fu anche un umanesimo volgare. Ecco, non bisogna si tende a sottovalutare questo umanesimo volgare. Quando si pensa all'umanesimo, si pensa giustamente soprattutto a grandi prosatori latini, grandi traduttori dal greco al latino. Questo è un fenomeno tipico molto importante di quell'epoca, che si inizia a studiare proprio oggi, perché queste traduzioni dal greco al latino di età umanistica sono state per lungo tempo un po' trascurate. Oggi c'è un risveglio di interesse, soprattutto a livello in un liceo classico. Insomma, sarebbe interessante leggere, dico per voi, qualche paginetta di Erodoto tradotto da Lorenzo Valla o di Platone tradotto da Marsilio Ficino, insomma, per citare solo i due esempi più celebri. Ad ogni modo, cosa stavo dicendo? Ecco, ci fu anche un umanesimo volgare, cioè scrittori che, insomma, tipico esempio del Poliziano, no? Autore, insomma, grande filologo, autore di importantissimi commenti in latino, poeta anche in lingua latina. Noi purtroppo non abbiamo il tempo e il modo di approfondire, anzi nemmeno di affrontare, questo studio della poesia latina di età umanistica, cioè questi grandi poeti che in età umanistica. Basti pensare a Giovanni Pontano, che fu forse il più importante, unitamente proprio al Poliziano. Ecco, accanto alla prevalente produzione in lingua latina, ci fu anche un fiorente umanesimo volgare. Se non sbaglio, abbiamo già letto il famoso canto carnassialesco di Lorenzo il Magnifico, no? Il trionfo di Bacco e Arianna, ma le poesie del Poliziano ne sono. Poesie in volgare, ecco, in italiano, insomma, del Poliziano ne sono un altro straordinario esempio. Fra l'altro, proprio nella Firenze Medicea venne bandito, venne indetto, no? Il cosiddetto certame coronario, cioè una tenzone poetica, in cui fra l'altro vennero fatti dei tentativi di riprodurre in lingua italiana i ritmi e i metri e le scansioni metriche della poesia latina, inaugurando uno sperimentalismo che arriverà anzi che culminerà con le odi barbare di Carducci, no? Nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche, ecco, sempre nell'ambito mediceo fu realizzata la cosiddetta raccolta aragonese, che era una straordinaria antologia della poesia italiana. Nel XVI secolo ci fu anche l'edizione giuntina delle opere di Dante, quindi non bisogna credere che l'umanesimo, per quanto legato soprattutto alla cultura greca e latina, trascurasse la poesia in volgare. Anzi, c'è una sorta di parallelismo fra la rivisitazione dei classici italiani, in particolare Dante e Petrarca, soprattutto Petrarca, sul versante della poesia in italiano e dall'altra parte la rivisitazione dei grandi modelli classici, principalmente Virgilio, ma anche Ovidio, Orazio, sul piano invece della poesia in latino. Ad ogni modo, ecco, stavo dicendo, rapporto fra cultura classica e tradizione cristiana, ecco, la favola di Orfeo di fatto è una sacra rappresentazione, ma di argomento pagano, di argomento mitologico. C'era la tradizione delle sacre rappresentazioni, cioè testi teatrali scritti in ottave in cui venivano rappresentati argomenti cristiani, soprattutto la passione di Cristo, la passione, la morte e la risurrezione di Cristo, in ottave, come quando si parla di ottava si intende una strofa di 8 versi endecasillabi con lo schema di rime ABABABCC. La cosiddetta ottava toscana, per distinguerla dall'ottava siciliana, che è un'altra cosa. Ecco, Poliziano prende la forma della sacra rappresentazione e la utilizza per rappresentare un celebre mito, pagano, quello di Orfeo ed Euridice, narrato, come sapete, no, dai poeti classici, in particolare da Virgilio nel quarto libro delle Georgiche, cioè quella parte, insomma, del quarto libro delle Georgiche, che di fatto è un po' come un epiglio, come si dice, con due L, come si direbbe con riferimento alla letteratura greca, cioè un piccolo epos, un poema epico un poemetto epico, insomma, di breve estensione e di particolare raffinatezza. Ecco, fra l'altro, il mito di Orfeo ed Euridice si prestava anche ad una implicita allegorizzazione in chiave cristiana, secondo una. No, si No, non si può, perché poi dice una. Perché si trattava di un mito di morte e risurrezione, in fin dei conti. Anche se la risurrezione di Euridice viene bruscamente interrotta, come sapete, dall'errore di Orfeo, che non si sa bene perché, anche su questo, di questo dettaglio sono state date varie interpretazioni, ma proprio sulla soglia della luce, ormai ad un passo dal ritorno nel mondo dei vivi. Ecco, Orfeo improvvidamente si volge per guardare Euridice, la quale viene nuovamente per sempre risucchiata nel mondo infero. Le interpretazioni moderne del mito di Orfeo sono molteplici. Da qualche parte devo avere anche una scheda qui nei meandri del computer, se riesco a ripescarla la metto anche in didattica, ma noi ci soffermiamo sul testo su alcune ottave del testo di Poliziano. Fra l'altro, questo mito di Orfeo fu anche alla base della nascita del melodramma, cioè non è casuale che i primi melodrammi, ovviamente con il melodramma siamo ormai in un'epoca di tardo Rinascimento, anzi già ormai alle soglie del barocco, quindi ormai agli albori del XVII secolo, ma questo motivo di ascendenza polizianea, proprio virgiliana, ovidiana e polizianea, mito di Orfeo sarà, come è noto, alla base del melodramma. In particolare, basti qui ricordare ecco, l'Orfeo del poliziano. Io ho anche inserito in didattica una breve sequenza dell'Orfeo del poliziano, che peraltro è stato riportato in scena non molti anni fa, con una ricostruzione molto accurata delle scenografie, dei costumi, delle coreografie, strumenti d'epoca ovviamente ricostruiti. Uno spettacolo davvero, davvero straordinario. Dura più di 2 ore, ma lo trovate su internet facilmente, insomma, può essere suggestivo. Dunque, ecco, sì, in una delle schede, il testo ovviamente lo trovate facilmente in qualsiasi antologia, insomma, nella vostra antologia, anche in un'altra, anche io comunque ho caricato lì un PDF, c'è cioè qui una breve introduzione, insomma, sul mito degli autori classici. Ad ogni modo, ecco, qui avete versi 249-288. Ecco Orfeo che, no, Orfeo cantando all'inferno la tolse, dice Poliziano, cioè proprio questo cantando che ha questo gerundio su cui viene posta una particolare enfasi, perché si sottolinea la forza eternatrice, no, del canto. Cioè il canto di Orfeo è quasi come un incantesimo, o un esorcismo, o un mantra, o una formula magica che esorcizza, o almeno dà l'illusione di poter esorcizzare la morte, che è la grande paura, no, quando i bambini hanno paura al buio, così, insomma, cosa fanno per farsi coraggio? Spontaneamente cantano, no? Cioè questa. Quindi chissà che proprio, no, il canto e la poesia non siano nati inizialmente come scongiuro, come esorcismo, come no? Tentativo di scongiurare la paura in generale, e in particolare la paura per eccellenza, la grande paura, che è quella della morte. No. Allora qui Orfeo si rivolge a Plutone, dice: no, o regnator di tutte quelle genti che hanno perduta la superna luce, al qual discende ciò che gli elementi, ciò che natura sotto il ciel produce. Udite la cagion dei miei lamenti, che hanno perduta la superna luce. Questo è uno dei, ecco, già superna, no? Superna, suprema, vorrebbe dire supernus, è un latinismo molto, molto forte, superna luce, cioè la luce. La luce, c'erano gli dei superi e gli dei inferi, cioè la luce del mondo supero, del mondo terreno, sarebbe contrapposto a quello infero, cioè all'Ade, o all'Averno, no? Allora, che hanno perduto la superna luce, qui c'è un'eco dantesca che sembra così generica: i dannati sono coloro che hanno perduto il ben dell'intelletto, che hanno perduto la superna luce. Queste tessere, come in un mosaico, tessere dantesche, petrarchesche, insomma, che si insinuano nel discorso di Poliziano, rientrano nella cosiddetta arte allusiva, no? Quella che un grande filologo, che forse avete sentito ricordare, Giorgio Pasquali, forse ne avete parlato, è stato citato dalla vostra professoressa di greco, vostro professore, sì, di greco e latino, ma comunque Giorgio Pasquali, no? Scrisse un saggio importante, L'arte allusiva, cioè soprattutto a partire dall'età ellenistica, nell'età ellenistico-romana, per i poeti diventa indispensabile citare, riecheggiare poeti precedenti, no? C'è una sorta di allusione necessaria. La stessa cosa si ritroverà ancora ai primi del Novecento in D'Annunzio, ad esempio. Qualcuno potrebbe dire, ma ha copiato. Fra l'altro c'è anche imitazione, il saggio si trova su internet facilmente. Arte allusiva di Giorgio Pasquali. Ma guarda, ho trovato proprio, sì, comodo questo sito adesso. Insomma, lo carico in didattica come al solito. Comunque, questo continuo riecheggiare, no? Gli autori, insomma, come in latino venivano riecheggiati i classici greci e latini, così nella poesia italiana vengono analogamente richiamati, no? Con questi ammiccamenti, queste strizzatine d'occhio, insomma, queste allusioni che il lettore colto è in grado di cogliere, ecco, vengono richiamati i classici italiani. Pietoso, ecco, udite la cagion dei miei lamenti. Questo è un verso di tono e di struttura petrarcheschi, no? Voi che ascoltate in rime sparse il suono, insomma, comunque questo appello al lettore che dovrebbe ascoltare i lamenti del poeta. Pietoso amore dei nostri passi è duce, e quindi dice il pietoso amore nel senso latino della pietas, cioè della devozione, attaccamento, benevolenza anche. Non per Cerber legar fo questa via, ma solamente per la donna mia. Cioè, io non sono come Ercole, non voglio sfidare Cerbero per legarlo. Gli dice Orfeo, io non sono Ercole, io non voglio compiere imprese eroiche, io sono solo un poeta innamorato, sono venuto qui per recuperare la mia Euridice. Una serpe tra i fiori nascose l'erba, mi tolse la mia donna, anzi il mio cuore. Ond'io meno la vita in pena acerba, ne posso più resistere al dolore. Notate che un italiano estremamente limpido, semplice, no? Sebbene risalga alla fine del XV secolo, ma insomma si capisce senza bisogno di grandi note. Ma se memoria alcuna in voi si serba del vostro celebrato antico amore, se la vecchia rapina mente avete, voi dice mia bella mi rendete. Cioè, qui Orfeo dice, beh, anche le divinità dell'inferno sono capaci di innamorarsi. Anche Plutone si innamorò di Proserpina. E in effetti c'è un'analogia, se vogliamo, fra il mito di Persefone, Proserpina, e quello di Euridice, che fin dei conti sono sempre miti, come anche il mito di Alcesti, per esempio. Sono tutti miti di morte, o anche i riti dionisiaci, insomma, sono questi riti di morte e risurrezione legati anche al rinnovamento della natura, no? È anche il mito dello sbranamento, dello sparagmos, che si trova sia nei miti dionisiaci che in quelli orfici, no? Sono tutti miti e riti che alludono a questa possibilità, a questa speranza, insomma, di una vita dopo la morte, insomma, di una risurrezione, legati anche a culti agresti, perché anche nella simbologia cristiana c'è, cioè, l'idea del seme che muore per rinascere, no? Il seme che non muore non può dare frutto. No, c'è questa idea della putredine o del marciume, che però è fonte di vita in certa misura, fonte di nutrimento. E si semina corpo animale, rinasce corpo spirituale, come dice San Paolo. Queste sono simbologie che forse accomunano un po' tutte le culture, ma in particolare in questo contesto così classico cristiano sono particolarmente vive. Ma se a memoria alcuna di voi si serba del vostro celibato antico amore, cioè quello di Plutone per Proserpio, se la vecchia rapina, cioè il rapimento narrato da Claudiano nel De Raptu Proserpine, aveva rappresentato splendidamente questo mito di Persefone, Dante con tutta probabilità nel descrivere il paradiso terrestre, la figura di Matilda, insomma, si ricorderà sia di Ovidio che di Claudiano, comunque delle rappresentazioni classiche di questo mito di Proserpine. Euridice, mia bella, mi rendete. Ogni cosa nel fine a voi ritorna, ogni vita mortale a voi ricade, no? Anafora, vedete, ogni cosa, ogni vita. Anafora e parallelismo. Qui anche la struttura sintattica, anche il ritmo, la scansione dei versi. Dà un po' l'idea di un cerchio che si ripete, che torna su se stesso. Ogni cosa nel fine a voi ritorna, ogni vita mortale a voi ricade. Cioè questo ciclo perenne di nascita e morte, no? Di vita e morte. Quanto cerchia la luna con suo corna, convien che arrivi alle vostre contrade. Vagamente, forse Leopardi, no? Nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia si ricorderà di questa immagine, chi lo sa. Pur tu solinga eterna peregrina, insomma, le continue orbite dei corpi celesti che danno un'idea di eterno ritorno, da cui però deriva anche il tedium vitae, no? Dalla ripetizione ossessiva deriva anche l'angoscia. In questi periodi di clausura, di segregazione, uno se ne rende conto ancora meglio. Ma dice, no, chi più chi meno tra i superi soggiorno, ognuno conviene che arrivi a queste strade. Insomma, chi più chi, insomma, tutti indipendentemente dal fatto che uno viva poco o viva a lungo, adesso il discorso un po' porta scalogna, comunque tutti alla fine dovranno giungere a queste contrade, cioè discendere nelle Ade. Questo dei nostri passi estremo segno, poi tenete di noi più lungo regno. E lui dice, l'estensione temporale del regno della morte è più vasta, è più ampia di quella del regno della vita. Questo è vero, insomma, la morte è più vasta, più grande della vita, perché la morte esiste fin dal principio dei tempi, mentre noi siamo creature finite. Poi diciamo anche l'inferno è eterno, mentre la vita terrena è finita e caduca. Così la ninfa mia per voi si serba, quando sua morte gli darà natura. Or la tenera vite l'uva acerba tagliata avete con la falce dura. Cioè Euridice, la giovane Euridice, era comunque destinata alla morte, perché me l'avete portata via prima del tempo? Tenera vite. Questo riferimento alla vite è chiaramente un riferimento dionisiaco, ma anche cristiano. Io sono la vite e voi i tralci, no? Quella celebre immagine cristiana, ma come è ovvio, l'immagine della vite era un'immagine dionisiaca, agreste, insomma, legata a riti antichissimi, insomma. Qui la falce dura, nel senso di crudele, spietata. Chi è che mieta la sementa in erba e non s'aspetti che ella sia matura? E non aspetti che ella sia matura? Ancora la simbologia della seminagione, no? E della fioritura. Cioè non bisogna falciare le piante prima del tempo. Dunque rendete a me la mia speranza. Io non ve il chieggio in dono, questa è prestanza. Quindi c'è il concetto che si trova ad esempio in Seneca, cioè la vita non è un possesso perpetuo, non bisogna pensare che duri per sempre, come è ovvio. La vita è come un bene che ci viene dato in prestito e noi dobbiamo restituirlo alla morte per legge inflessibile di natura. Io ve ne priego per le torbide acque della palude Stige ed Acheronte, per il caos onde tutto il mondo nacque, concetto ovidiano. Anche Esiodeo, no? Esiodo e Ovidio rappresentano il caos primordiale, no? Da cui emergono tutte le forme. E per il sonante ardor di Flegetonte, Acheronte, Flegetonte, Flegetonte sono i fiumi, no? Infernali, di cui parla anche Dante. Insomma. Per pomo Catagiare, Regina, piacque quando lasciasti pria nostro orizzonte. Qui alluda alla regina degli inferi, Persefone, Proserpina, nella sua duplice natura è ambivalente, perché è una divinità, è la regina degli inferi, ma è anche la dea della primavera. C'è questa duplicità di vita e morte, che non possono esistere l'una senza l'altra. E seppur me la nieghi iniqua sorte, io non vo sottornar, ma chieggio morte. Cioè, se non posso avere di nuovo la mia cara Euridice, allora niente, preferisco morire. Questo è il lamento di Orfeo, che poi avrà tutta una tradizione musicale. Cioè, se uno. Insomma, il lamento di Orfeo, vabbè, è chiaro che il più famoso è quello del grande Claudio Monteverdi, lo straordinario compositore, uno dei grandi geni della musica, il vero padre del melodramma, veramente esisteva già, perché, ma insomma, ecco, fra l'altro, aspettate un attimo. Ecco, no, non ricordo se ve l'ho già, forse non ve l'ho ancora messo in didattica, non l'ho ancora caricato, insomma, in didattica. Ad ogni modo, sempre nella favola di Orfeo c'è il lamento di Euridice, il lamento di Orfeo per la morte di Euridice. Ecco. Versi 149-180 dell'Orfeo del Poliziano. Dunque piangiamo, sconsolata lira, che più non si convien l'usato canto. Piangiam mentre che il ciel Nepolia gira, e Filomela ceda al nostro pianto. O cielo, terra, o mare, o sorte d'ira, come potrò soffrir mai dolor tanto? Questo polisindeto, o cielo, terra o mare, o sorte d'ira, è di fattura tipicamente petrarchesca. Euridice mia bella, o vita mia, senza te non convien che in vita stia. Questa cantabilità che sembra così facile, superficiale, se vogliamo, quasi, in realtà era legata alla musica. Ovviamente, ecco, noi purtroppo non abbiamo le partiture della musica che accompagnò in origine l'Orfeo del Poliziano in occasione della prima rappresentazione. Fra l'altro, l'Orfeo del Poliziano è scritto in brevissimo tempo, credo in 3 giorni, 4 giorni, per una rappresentazione. Spesso quando uno lavora sotto pressione, in tempi strettissimi, dà il meglio di sé. Questo capita nella vita, e così accadde al Poliziano, che di fatto scrisse questo straordinario capolavoro, anche importantissimo nella storia delle arti, perché senza questo recupero in chiave musicale del mito di Orfeo, forse il melodramma non sarebbe mai nato, chi lo sa. Giandar conviemmi alle tartare porte, provar se laggiù mercè s'impetra. Qui vedete, qui il verbo impetrare significa ottenere, non c'entra niente con la pietra, ma queste sonorità così aspre fanno pensare a Dante, no? Al Dante infernale. Le tartare porte, no? Questo tartare porte sarebbe le soglie dell'inferno, del tartaro, che non è quello dei denti, anche se insomma anche quello provoca dolori infernali. Ma questo è il tartaro, nel senso degli iferi. Allora, praticamente, forse che svolgeremo la dura sorte coi lacrimosi versi, o dolce cetra, forse che diverrà pietosa morte. Dice, che già cantando abbia mosso una pietra. Il canto di Orfeo, la lira di Orfeo, un po' come quella di Anfione, era in grado, secondo il mito, di ammansire le belve e addirittura di smuovere le pietre. C'è qualcosa di magico, quasi di sciamanico in questo mito, cioè l'idea che la musica e il canto possano agire sulla materia, cioè sia sugli animali che sulle cose inanimate. Dice, forse che diverrà pietosa morte, che già cantando abbia mosso una pietra. La cerva e il tigre insieme abbiamo accolti e tirate le selve e i fiumi svolti. Insomma, la lira di Orfeo aveva questo potere straordinario di agire sulla natura. Un po' come quando Cristo, no, comanda, cioè riesce a sedare la tempesta, no? Comanda alla natura attraverso la parola, no? Questo è un po' un grande elemento, sia classico che cristiano. Pietà, pietà del misero amatore, pietà vi prenda, o spiriti infernali. Quaggiù m'ha scorto solamente amore, volato son quaggiù con le sue ali. Bellissimo verso. Quaggiù m'ha scorto solamente amore. È stato solo l'amore che mi ha guidato fino qui. C'è uno, non so, in questo periodo di blocco dovesse fare un viaggio avventuroso attraversando tre o quattro regioni. Vabbè, non si può, ma insomma, qualche pazzo o qualche innamorato appunto lo fa, no? Allora, potrebbe arrivare dalla fanciulla amata e dire: quaggiù m'ha scorto solamente amore, volato son quaggiù con le sue ali. Posa Cerbero, posa il tuo furore, che quando intenderai tutti i miei mali, non solamente tu piangerai meco, ma qualunque quaggiù nel mondo cieco. Qui, in questo PDF che caricherò, c'è un errore di stampa. Evidentemente hanno scannerizzato male il testo, ma comunque, dice. Cioè, perfino le creature infernali piangeranno e si lamenteranno quando sentiranno questo mio lamento. Non bisogna per me furie mugghiare, non bisogna arricciare tanti serpenti, se voi sapessi le mie doglie amare, faresti compagnia ai miei lamenti. Lasciate questo miserel passare, che è il ciel nemico e tutti gli elementi, che vien per impetrar mercè da morte, dunque gli aprite le ferrate porte. Viene per impetrare mercè da morte, vuol dire per ottenere pietà dalla morte, no? Mercè nel senso di mercede. Ecco. Beh, è chiaro che a lungo andare è anche un po' ripetitivo, no? Questo testo, perché in origine era accompagnato dalla musica, privato della musica, che per noi è perduta, non ha più molto del suo fascino, insomma. Come vi ho già detto, Orfeo alla fine non riesce a riportare Euridice alla luce, perché nell'ultimo istante, non si sa esattamente perché, si volta contrariamente al divieto, perché lui aveva ottenuto di riportarla alla luce a condizione che non si voltasse per guardarla. Esattamente perché si volta Orfeo, no? Dice Ovidio, restitit, cioè si fermò improvvisamente. Orfeo guardò Euridice, lei per sempre fu inghiottita dalle tenebre. Ecco, sono state date varie interpretazioni, ci sono diverse variazioni sul mito di Orfeo. C'è una bellissima poesia di Marina Cvetaeva, in cui è un poesia di Marina Cvetaeva, Orfeo ed Euridice, in cui Marina Cvetaeva immagina che sia stata Euridice a non voler più tornare sulla terra, cioè il mito di Orfeo ed Euridice rappresenterebbe la inconciliabilità di principio maschile e principio femminile, animus e anima. E c'è quella bellissima conclusione: non devono i fratelli turbare le sorelle, cioè in parole povere, insomma, l'uomo con la sua, il maschio, insomma, con la sua rozzezza, con la sua insensibilità, con la sua violenza anche, no, non fa altro che turbare la perfezione, la sublimità della natura femminile, è un po' la dialettica degli opposti, diciamo. C'è poi fra le tante interpretazioni del mito di Orfeo, quella di Pavese, ecco, i dialoghi con Leucò di Pavese, opera straordinaria che vi consiglio di leggere per intero, anche perché facendo studi classici, insomma. Credo che in assoluto la più straordinaria rivisitazione novecentesca del mito classico in tutte le sue sfumature siano proprio i dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, sicuramente il suo capolavoro, quest'opera in cui viene rivisitato il genere del dialogo, i modelli sono principalmente Platone e Leopardi, direi, no? I dialoghi di Platone e le operette morali di Leopardi. Si tratta di dialoghi che hanno queste atmosfere incantate, surreali, remote, no? Sembrano proprio parole come tradotte da una lingua preverbale, una sorta di linguaggio del sogno o del subconscio, donde deriva uno splendido effetto straniante. Ma non perché lo stile sia complesso, al contrario, la prosa dei dialoghi con Leucò è assolutamente limpida, trasparente quasi, forse proprio da questo contrasto fra la profondità archetipica dei contenuti e la straordinaria limpidezza della scrittura. Proprio da questo contrasto nasce l'effetto di straniamento, cioè di stupore, di spiazzamento, quasi di disagio del lettore. È andata così, salivamo il sentiero tra il bosco delle ombre. Erano già lontani Cocito, lo Stige, la barca, i lamenti. Si intravedeva sulle foglie il barlume del cielo, mi sentivo alle spalle il fruscio del suo passo, ma io ero ancora laggiù e avevo addosso quel freddo. Pensavo che un giorno avrei dovuto tornarci, che ciò che è stato sarà ancora. Ecco, tipico motivo niciano dell'eterno ritorno dell'uguale, ma non solo, prima ancora leopardiano, ma già i filosofi stoici, Seneca, che parlavano di questo eterno ritorno dell'uguale, da cui deriva una grande angoscia, no? L'angoscia della ripetizione, di cui parla anche la psicanalisi, la coazione a ripetere, no? Certi riti ossessivi, no? Certi gesti che vengono sempre ripetuti, certo. Come dei rituali, no? Senza i quali la persona si sentirebbe smarrita. E allora dice: pensavo alla vita con lei come era prima, che un'altra volta sarebbe finita. Ciò che è stato sarà. Pensavo a quel gelo, quel vuoto che avevo attraversato e che lei si portava nelle ossa, nel midollo, nel sangue. Valeva la pena di rivivere ancora. Ci pensai e intravidi il barlume del giorno. Allora dissi sia finita e mi voltai. E Euridice scomparve come si spegne una candela. Sentii soltanto un cigolio, come di un topo che si salva. Quindi nella rilettura di Pavese è lo stesso Orfeo che fa quasi che di fatto si volta apposta per far tornare Euridice negli inferi, perché ormai Euridice è stata toccata dalla morte, no? Ha in sé il gelo della morte, un po' come una persona che sia stata salvata da un tentativo di suicidio, no? Gli altri non la vedranno mai più, i suoi cari, i suoi conoscenti, i suoi amici, difficilmente la vedranno ancora come come la vedevano prima, e quella è una persona che ormai è stata come toccata dalla morte, no? Ha avuto un contatto con la morte, con la volontà almeno di morire, col pensiero, pensiero concreto, immediato della morte. Dice, Euridice avrà sempre sul suo corpo questo gelo, quasi questa contaminazione della morte, quindi non potrà mai essere come prima. Tu dici che sei come un uomo, sappi dunque che un uomo non sa che farsene della morte. L'Euridice che ho pianto era una stagione della vita. Io cercavo ben altro laggiù che il suo amore. Cercavo un passato che Euridice non sa. L'ho capito tra i morti mentre cantavo il mio canto. Vedete, cioè, quello, il motivo del canto come in poliziano. Ho visto le ombre irrigidirsi e guardare vuoto, i lamenti cessare, Persefone nascondersi il volto. Lo stesso tenebroso impassibile Ade protendersi come un mortale e ascoltare. Ho capito che i morti non sono più nulla. Quindi proprio il canto, no? Il canto che da un lato può anche risuscitare i morti, nello stesso tempo ne mette in evidenza la nullità. Il dolore ti ha stravolto, Orfeo. Chi non rivorrebbe il passato? Euridice era quasi rinata. Per poi morire un'altra volta, per portarsi nel sangue l'orrore dell'Ade e tremare con me giorno e notte. Tu non sai cos'è il nulla. Ecco, Orfeo invece, che era stato agli inferi, aveva guardato in faccia quel nulla. E così tu che cantando, no? Orfeo cantando all'inferno la tolse, cioè, questa è un'eco quasi diretta, un riferimento quasi diretto al testo di Poliziano. E così tu che cantando avevi riavuto il passato l'hai respinto e distrutto. No, non ci posso credere. Fu un vero passato soltanto nel canto. L'Ade vide se stesso soltanto ascoltandomi. Già salendo il sentiero quel passato svaniva, si faceva ricordo, sapeva di morte. Quando mi giunse il primo barlume di cielo, trasalii come un ragazzo, felice e incredulo. Trasalii per me solo, per il mondo dei vivi. La stagione che avevo cercato era là, in quel barlume. Non mi importò nulla di lei che mi seguiva. Il mio passato fu il chiarore, fu il canto e il mattino e mi voltai. Cioè, il canto è vita e l'idea che il canto possa riportare in vita i morti è soltanto un'illusione. Tutt'al più può ridestare o può risuscitare dei fantasmi, delle apparenze illusorie. Ma la vita e la morte restano inconciliabili. Qui se vogliamo c'è anche una consapevolezza dell'illusorietà della forza eternatrice della poesia, no? Orazio diceva: non omnis moriar, cioè, grazie alla mia poesia io non sarò mai dimenticato, una parte di me eviterà, magna pars mei vitabit libitinam, cioè una gran parte di me eviterà la soglia della morte, ma in realtà si tratta di una sopravvivenza, di un'eternità esclusivamente illusoria, anche perché sono affidate a qualcosa di così immateriale, di così ectoplasmatico, insomma, come evanescente, no? La parola, il canto, la musica, insomma, qualcosa che è affidato così all'immaterialità, all'aria, alla luce, al soffio. Ecco. Bene, ci risentiremo prossimamente per Ariosto, per Tasso. Dobbiamo dire qualcosa anche su Machiavelli e Guicciardini, quindi, insomma, vi annoierò ancora, penso, o almeno annoierò quei pochi che ascolteranno queste registrazioni ancora per non più di 3 o 4 ore, penso.